Pronto? Il direttore glielo passano. Sì. Pronto? Sì, direttore, le passo il presidente. Sì, grazie. Sì. Agostino. Presidente, buonasera, come sta, presidente? Sopravvive. Vabbè, ma alla grande, voglio dire, anche se tra difficoltà, cioè io, lei è sempre più amato nel paese. Politicamente zero. Sì, Socialmente mi hanno scambiato per il Papa. Appunto, dico, lei è amato proprio nel paese, guarda, glielo dico senza nessuna piaggeria. Sono fatto oggetto di attenzione di cui sono indegno. Ma è stupendo, perché c'è un bisogno, c'è un vuoto che lei copre anche emotivamente, cioè, per cui la gente proprio è così, lo registriamo. Imbarazzante. Ma è bellissima. Vabbè. Però. Allora. Presidente, noi ora disturbo per questo, per una cosa fondamentale, volevo dirle alcune cose della RAI importanti in questo momento. Perché abbiamo faticato tanto per conservare la maggioranza, la maggioranza 5 è importante anche in questo passaggio, riusciamo a conservarla per un anno dopo la via, ma è strategica questa cosa, ma se la stanno giocando in una maniera stupida proprio, cioè, quindi lei già lo sa, perché volevo darle questo allarme, perché allora se abbiamo una maggioranza in consiglio e quindi abbiamo una forza importante, questa maggioranza non la smonta più nessuno ormai dopo la decisione. Sì, lo capisco, Urbani che fa lo stronzo, no? Ma allora, Urbani io non so, io penso che in questi giorni sono stati più i nostri alleati che hanno un po', no? Lui forse ha fatto un errore su Minoli l'altra volta, però sono stati un po' l'AN e anche la Lega che per un piatto di lenticchie proprio hanno spaccato la maggioranza dopo 15 giorni in cui la maggioranza era uscita saldissima dalle aule giudiziarie, cioè quello che non è riuscito con li richiamo le richiami lei all'ordine. D'accordo. Presidente, perché abbiamo una grande vittoria qui in azienda, stavamo riprendendo anche consensi in giro. Va bene. Adesso vediamo un po'. Senti, io poi avevo bisogno di vederti perché sì, c'è Bossi che mi sta facendo la testa tanta. Sì, per sì. Questo cavolo di fiction del Barbarossa. Barbarossa è a posto per quello che riguarda Rai Fiction, cioè in qualunque momento. Allora mi fai una cortesia? Sì, sì. Puoi chiamare la loro soldatessa che hanno dentro in consiglio? Sì, sì. Dicendogli testualmente che io ti ho chiamato. Va bene, va bene. E che tu mi hai dato garanzia che è a posto. Sì, sì, è tutto a posto. Chiamala, solo... perché ieri sera la chiamo subito, a cena, presidente. Con lei e con Bossi. Bossi mi ha detto, ma insomma, di qui e di là, di su. Ecco, se tu potessi fare sta roba, mi farebbe. Allora, diciamola tutta, presidente, così lei la sa tutta. Intanto il signor regista ha fatto un errore madornale, perché un mese fa ha dato e loro lo sanno, un'intervista alla Padagna dicendo che aveva parlato con Bossi e che era tutta, io ero riuscito a rimetterla in moto la cosa, che era tutto a posto perché aveva parlato col senatore, bla bla bla. Il giorno dopo il Corriere scrive due pezzi dicendo sa cafa quello che gli chiede la poi le mando poi gli articoli proprio. Sì, chi è il regista? Il regista Martinelli, che è un bravo regista, sì, però è uno stupido, un ingenuo, un cretino proprio, un cretino. Mi ha messo in una condizione molto difficile perché mi ha scritto un articolo del Corriere della Sera e poi, non contento, grasso, sul magazine del Corriere della Sera, scrive il potente saccaffa quello che gli dice Berlusconi, basta, eccetera, che poi... Non è vero, lei non mi ha chiesto mai, lei è l'unica persona che non mi ha chiesto mai niente, voglio dire. No? Io qualche volta di donne ti chiedo. Sì, ma mai. Il morale del capo. Esatto, ma voglio dire, ma ha lasciato una libertà culturale, totale, voglio dire, totale. E questo lo sanno tutti. Allora perché? E malgrado questo, io sono stato chiamato poi dal presidente, dal direttore generale, ma com'è questa cosa vale perché Barbarossa è Barbarossa, perché Legnano è Legnano, certo, perché certo. I comuni a Milano hanno segnato la civiltà dell'Occidente, d'accordo. Voglio dire. Quindi adesso io la chiamo subito, eccetera. Presidente, poi quando lei ha un attimo di... La settimana prossima a Roma viene a trovare, chiamo la Marinella. Mi metto d'accordo con Marinella. Lunedì che ci mettiamo d'accordo, va bene? Senti, tu mi puoi fare ricevere due persone? Assolutamente. Perché cioè, io sono veramente dilaniato dalle richieste di coso. Assolutamente. Con la Elena Russo non c'era più niente da fare, non c'è modo. No, c'è un progetto interessante, adesso io la chiamo. Mi puoi fare la chiamata, la Elena Russo. E poi la Evelina Manna, non c'entro niente io, è una cosa, diciamo, di... Chi mi dà il numero? Evelina Manna... io non ce l'ho. Guarda su internet. Vabbè, la trovo. Non è un problema, me la trovo io. Allora trovo ti spiego che cos'è questa qui. No, ma presidente, non mi devi spiegare. No, ma te lo spiego. Io sto cercando di avere. Presidente, lei è la persona più civile, più corretta. Allora, è questo il mio nome, ma detto un nome è un problema mio. Io sto cercando di avere la maggioranza in Senato. Capito tutto. Ecco, questa Evelina Manna può essere, perché mi è stata richiesta da qualcuno con cui sto trattando. Presidente, a questo proposito, quando ci vediamo, io le posso dire qualcosa che riguarda la Calabria, interessante. Molto bene. Perché c'è stato un errore, una prima fase c'è stato un errore, per la persona che ha mediato il rapporto, lo dico meglio a voce. Che non andava bene. Non andava bene. Devo farlo io direttamente. Esatto, non andava bene, nulla. Ma poi le dico meglio, Presidente. Va bene, io sto lavorando in questa operazione libertà, ce l'ho chiamata così. Va bene? Va bene. Se puoi chiamare questa signora qui... La chiamo e poi quando ci vediamo le riferisco. E anche Elena Russo, grazie va mille. Va bene. Allora, arrivederci, alla prossima, ci vediamo. Oh, metta le mani però su sta maggioranza, perché avendo faticato tanto per avere la maggioranza in consiglio. Faccio questo. Che si sciolta dopo la settimana. Abbiamo fatto una figura barbina. Va bene. Ma non per colpa, mi creda, di Urbani. Urbani forse fa altre cazzate. Sì, va bene. Grazie, Presidente. Grazie, ciao. Ci vediamo la settimana prossima.